impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Ermanno e Toni Cervino, il lusso della tradizione artigiana made in Italy, di Alessandra Tedesco. La storia che vi raccontiamo oggi potrebbe iniziare come una favola. C'era una volta, anzi, c'erano una volta, due amici di vecchia data, Ermanno e Toni. Ermanno ha doti creative e negli anni Ottanta ha vissuto nelle metropoli più cool del momento, da Parigi a Londra, da Ibiza alla New York di Andy Warhol. Toni ha più una mente imprenditoriale, sa gestire i numeri. Alla fine degli anni 90 decidono di mettere insieme le proprie qualità, arrivando a fondare nel 2000 a Firenze la Maison di moda Ermanno Cervino, che diventa anche il nome d'arte dello stilista. È Toni Cervino, CEO dell'azienda, a raccontarci gli inizi di questa avventura imprenditoriale. Ermanno è sempre stato un designer di moda, io l'ho sempre affiancato nel lavoro, e poi il mondo della moda è molto complesso, perché tu devi spiegare, se tu devi spiegare a qualcuno il perché vuoi fare una cosa, è già faticoso di suo, diventa ancora più faticoso. Quindi abbiamo iniziato da soli, era l'anno 2000, e abbiamo iniziato a disegnare le collezioni e a fare dei prodotti, all'inizio alla ricerca di aziende in grado di produrre quello che volevamo noi, altro nodo molto difficile. Però con molta caparbietà, con molta volontà, con la totale abnegazione riguardo al lavoro, che poi si riassume in una parola sola, che è la passione, devo dire che siamo riusciti, fin dalle prime stagioni c'è stato un riscontro del mercato interessante, forte, che subito hanno capito che probabilmente facevamo delle cose interessanti, e diciamo che sono stati molto duri i primi 2-3 anni. Dover organizzare, dover lavorare, far crescere l'azienda, la ricerca del personale, insomma, un'azienda ha una moltitudine di sfaccettature che dirle tutte non è possibile, però i primi 2-3 anni sono stati più faticosi. Lo è faticoso ancora, però da un altro punto di vista. La prima collezione donna debutta sulle passerelle milanesi nel 2003, riscuotendo un grande successo. Da quel momento l'azienda registra una crescita esponenziale in termini di fatturato, oggi arrivato a 100 milioni di euro. Crescita sì, ma senza strappi o follie. La prudenza è d'obbligo per chi ha iniziato con le proprie risorse senza chiedere prestiti bancari. La moda ti permette di fare una collezione e di vendere con la collezione e dopo andare in produzione. Questo non ti espone a rimanenze, non ti espone a un altro tipo di rischi. Poi noi, facendo le collezioni, fin da subito abbiamo tarato il target sul lusso, perché è quello che sappiamo fare, è il nostro DNA, è quello che ci piace di più, e quindi questo cosa comportava? Ha comportato che vendevamo a negozi in tutto il mondo, già dalle primissime stagioni, molto importanti, molto forti, i quali garantivano anche, ci hanno sempre garantito i pagamenti, perché lei sa che con un'impresa non basta produrre, non basta vendere, l'importante è poi dopo incassare. La crescita della Maison è stata piuttosto lineare, anche se è possibile identificare alcuni momenti di svolta, soprattutto quando alcuni anni fa viene creato un altro stabilimento e il numero dei dipendenti aumenta sensibilmente, come racconta il CEO. La nostra crescita è sempre stata abbastanza lineare, veloce ma abbastanza lineare. Ci sono stati momenti di svolta, più che altro quando ti rendi conto che a un certo momento ti accorgi di essere conosciuto, in cui ti accorgi che vedi le tue cose nei film, in televisione, oppure che una star di Hollywood o più di una e lo stesso giorno veste le tue cose. La svolta l'ha avuta quando abbiamo fatto la nuova sede, che è questo già 7 anni fa, siamo passati da una realtà semifamiliare a un'azienda industriale. Abbiamo iniziato la prima collezione, eravamo in 4, adesso siamo 300 persone interne più 1500 che lavorano in esclusiva per noi, quindi la svolta c'è stata. E nello stabilimento fiorentino si fa formazione, si cerca di passare il testimone dalle vecchie generazioni di sarte prossime alla pensione alle nuove, cercando di colmare un vuoto. La cosa che noi abbiamo in cui abbiamo sempre creduto molto è il Made in Italy, la capacità tecnologica delle nostre donne. Nessuno ne parla mai, ma le nostre donne, le nostre sorelle, madri, nonne, finita la guerra era finita, il paese era distrutto, ma avevano nelle mani una potenza mondiale che hanno permesso al paese di risorgere, hanno permesso al paese di fare il boom industriale. E quindi noi, da quando abbiamo iniziato l'impresa, abbiamo raccolto i gruppi piccoli che non riuscivano più a globalizzarsi, che non riuscivano ad esportare, li abbiamo acquisiti, li abbiamo messi in un'unica struttura a Firenze, nella campagna toscana, appunto per salvaguardare questa manualità e per tramandarla alle nuove generazioni. Il Made in Italy, alla fin fine, è quello che sanno fare le mani delle nostre donne. Cioè, chiamiamolo come vogliamo, ma è questo la vera essenza. Se io faccio realizzare un disegno in Italia, faccio realizzare un capo da un disegno e lo faccio realizzare in Italia, o lo mando all'estero dove costa la metà o un decimo, lei lo vede subito, non le interessa quel prodotto lì. Perché non dipende solo dal disegno, non dipende solo dall'idea, ma dipende per la maggior parte come è costruito, la sapienza che c'è stata messa dentro, la manualità di chi l'ha costruito, fa veramente la differenza. La produzione della Ermanno Cervino è dunque totalmente italiana, ma le vendite sono più forti all'estero, soprattutto in quei paesi che apprezzano particolarmente il Made in Italy. L'export di questi prodotti di lusso si concentra in paesi europei come la Francia e la Gran Bretagna. Ma ultimamente si stanno aprendo altri mercati dalle grandi potenzialità, come gli Stati Uniti, dove nell'agosto 2015 è stato aperto un negozio monomarca a Miami. La percentuale di esportazione supera il 70%, per fortuna, perché, come lei ben sa, negli ultimi anni il paese Italia purtroppo consuma molto meno. E per poter ampliare, per poter sviluppare sempre di più le esportazioni, adesso per esempio stiamo aprendo 10 negozi tutti all'estero nell'arco di 2 mesi, perché i negozi monobrand sono veicoli dell'immagine di un brand e arrivano però con già un mercato pronto e recettivo ai nostri prodotti. Ovviamente stiamo aprendo i paesi arabi, apriamo a Barcellona, apriamo il secondo punto vendita a Londra. Dobbiamo assolutamente, noi italiani, col costo del lavoro così alto come abbiamo, fare dei prodotti di altissima qualità, e per fortuna nel mondo, in questo momento storico in particolare, c'è una gran voglia di prodotti di alta qualità, di alta tecnologia e di prodotti curati come si fa in Italia. Le strategie sono ovviamente ampliare e esportare di più, quindi andare a conquistare sempre nuovi mercati, gli Stati Uniti innanzitutto, anche il Sud America, il Brasile sta diventando un paese interessante, noi lo vediamo dai clienti, dalle persone che arrivano in Europa a comprare. Noi abbiamo già negozi a Londra, a Parigi, a Roma, a Milano, e lo vediamo che ci sono brasiliani che acquistano molto, che amano anche loro il Made in Italy. Tantissimi, sembra incredibile, africani fra i migliori clienti, e a Londra tantissimi africani. Poi non le sto a dire ovviamente gli inglesi, i francesi, gli europei, però quelli che fanno più che lasciano più perplessi sono proprio questi nuovi paesi, che c'è una classe ricca che ha voglia di riscatto, che ha voglia di qualità, che ha voglia di bellezza. In un'azienda che non ha rinunciato alla fattura artigianale e anzi ne fa un punto di forza, non vengono trascurati gli investimenti in innovazione. Quello che si cerca in questa casa di moda è un mix fra manualità artigianale e materiali innovativi, come spiega ancora Tony Cervino. Quando io parlo di artigianalità voglio distinguere bene che quell'artigianalità lì, quella sapienza di generazione che hanno le nostre sarte, non deve servire a fare un prodotto nostalgico, perché sarebbe la morte della moda. Noi facciamo moda, noi facciamo innovazione, noi dobbiamo vestire le donne di questo millennio, non di quello scorso, quindi non del secolo scorso. Quindi quella manualità lì deve servire a varcare nuove frontiere. Ogni giorno vengono inventati dei materiali nuovi, ogni giorno vengono inventate delle tecniche nuove anche nel cucito, ma con quella sapienza che hanno loro si riesce a fare la vera sperimentazione. Noi in particolare investiamo tantissimo in innovazione, cioè per poter superare un traguardo, dire una lavorazione di un materiale nuovo, noi non badiamo a spese, non badiamo a spese di trattamenti, non badiamo a spese di tecniche, magari spacchiamo a volte, molto spesso, anche dei macchinari, perché non è possibile. Le faccio un esempio, era quello il primo che viene in mente, e nessuno era mai riuscito, almeno da quello che ci risulta, lavorare la raffia, che è un materiale vegetale, alle macchine da maglieria, macchine che avevano sempre fatto cashmere o delle sete pazzesche. Noi eravamo ostinati, volevamo che la raffia fosse lavorata alle macchine da maglieria per ottenere una maglia con questo materiale, dei maglioni con questo materiale. Ci sono stati 8 mesi di prove. Quando poi a un certo momento stavamo per demordere, perché le macchine venivano danneggiate da questo materiale diverso dal cashmere e dalla seta, ci siamo riusciti e subito ti accorgi che quando ottieni un prodotto nuovo dove dietro c'è una sperimentazione, la cliente finale non lo sa, non sa la fatica che c'è stata dietro, ma si accorge che ha in mano un qualcosa di nuovo, di speciale, e quindi subito il mercato, cioè fai sold out al 100% immediatamente. Sembra strano, sembra incredibile, ma le persone, anche se non conoscono i processi di costruzione, ma la novità, subito la afferrano e la desiderano, ed è un prodotto che ti permette di entrare nei nuovi mercati, perché quando tu fai qualcosa di assolutamente nuovo, non hai concorrenti e il mercato subito ti dà dello spazio. Oltre a produrre capi di lusso, ora la Ermanno Cervino realizzerà anche le divise della Nazionale Italiana di Calcio fino al 2018. La partnership inizierà in occasione dei campionati europei 2016 che si svolgeranno in Francia e proseguirà fino ai prossimi mondiali di calcio previsti nel 2018 in Russia. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.